Con Luca Ruocco, co-direttore della 38esima edizione del Fanta Festival a Roma, al My Cityplex Savoy, dal 5 al 9 dicembre. Luca, ben trovato. Grazie. Presentaci un po' questa edizione. Allora, guarda, è un'edizione con innanzitutto con tante proiezioni e tanti appuntamenti speciali. Apriamo il 5 di dicembre, subito dopo la cerimonia d'apertura, con l'ultimo film di Ruggero Deodato, Palla d'in Blood, presentato in sala dallo stesso regista, che porterà insieme all'editore NPE Edizioni anche il suo nuovo libro. Ha lavorato a una edizione illustrata di un sequel del suo famoso Cannibal Holocaust. Nei giorni successivi, sempre per quanto riguarda gli appuntamenti speciali, abbiamo l'ultimo film di Luigi Gozzi, che è una proiezione che il Fantafestival, diciamo, dedica un po' alle famiglie. Non è un film prettamente di genere fantascientifico o horror come tutti gli altri che mandiamo, ma è un film fantastico. Si chiama I piccoli maghi di Oz. Luigi Gozzi lo ha lavorato insieme a dei giovanissimi studenti di una scuola elementare, usandoli come attori. Nel terzo giorno, da non perdere, per esempio, c'è Antrum. Antrum è un film che ha una storia un po' particolare. Pare sia, questa è la storia dietro al film, pare che sia un film girato negli anni 70, che ha avuto una sola proiezione a inizio anni 80 in un cinema di Budapest, che durante la proiezione è andato in fiamme. Questo è un film maledetto che si porta dietro brutte vicende e noi lo proiettiamo, diciamo, a nostro rischio e pericolo, ma anche a rischio e pericolo del nostro pubblico, che è sicuramente coraggiosissimo, non si farà scoraggiare. Anche perché sembra un film nel film, per cui va benissimo. Esattamente, esattamente. Poi continuiamo con un documentario importantissimo, secondo noi, Aquarius Visionarius di Claudio Lattanzi. È un documentario sulla carriera registica di Michele Soavi. E l'ultimo giorno invece lo dedichiamo alla versione restaurata di Suspiria di Dario Argento. È una nuova versione restaurata curata da Luciano Tovoli, dal direttore della fotografia, e in sala saranno presenti sia Tovoli che Argento. In mezzo a tutte queste proiezioni speciali ci sono ovviamente tutti i film in concorso, sia italiani che stranieri, e ovviamente, come ogni anno, cortometraggi, presentazioni editoriali e di progetti web. Più o meno quanti sono i lavori ospitati? Ma guarda, quest'anno sono un po' di meno degli altri anni perché abbiamo una sola sala per varie vicende che non ti sto qui a narrare, però comunque sono sicuramente tanti, sono oltre 10 corti al giorno e ogni giorno abbiamo 3 lungometraggi, quindi comunque son tanti lavori. È prevista la presenza anche degli autori e autrici? Ci sono tanti autori presenti, come sempre. Tutti i registi italiani ovviamente saranno presenti insieme al cast e alla crew dei film e dei corti a presentarlo, però verranno anche alcuni registi stranieri. Verrà a presentare per esempio il film Mimesis Nosferatu, in concorso il regista dagli Stati Uniti. Verrà dalla Germania invece il regista Eckhard Schmidt a presentare un film dell'82, un piccolo cult riscoperto, che proiettiamo in collaborazione con Shockproof. È un thriller che si chiama The Fan. Senti, in questi ultimi anni come si sta trasformando il Fanta Festival? Ma guarda, dalle edizioni iniziali ovviamente si è negli anni un po' spostato anche verso la cinematografia più indipendente e a basso budget. Questo in Italia è stato, diciamo, un meccanismo quasi automatico, perché la stessa produzione di cinema di genere nostrano ha fatto lo stesso percorso: dal cinema, quindi dai film mainstream, si è spostato verso la produzione più indie. Come anche altri festival importanti, come quello di Sitges o quello di Londra, ovviamente noi ci proponiamo anche come vetrina per film che avranno maggiori difficoltà di altri ad arrivare in sala, quindi a incontrare il pubblico. Parlo sia di film italiani che di film stranieri in questo caso. Ed è successo più di una volta già che proprio anche grazie al Fantafestival alcuni di questi film abbiano poi trovato distribuzione almeno in home video oppure registi siano riusciti ad arrivare a produttori che poi gli hanno permesso di arrivare in sala vera e propria. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? Assolutamente. Allora, il programma sarà pubblicato stamattina, il programma ufficiale con tutti i corti e tutti i lunghi proiettati, e lo trovate sul sito www.fanta-altofestival.it oppure sui nostri canali social, sia su Facebook, Instagram e Twitter, Fanta Festival. Perfetto. Allora, ricordiamo la 38ª edizione del Fanta Festival a Roma, al My Cityplex Savoy, dal 5 al 9 dicembre. Un saluto e un ringraziamento al codirettore Luca Ruocco. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. A presto, vi aspettiamo. Tra l'altro partiamo 1 e 2 dicembre con una retrospettiva al Cinema Trevi, quindi se volete cominciare a frequentarci, ci vediamo anche lì. Ciao Luca. Ciao.